Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Sono sempre più numerose le evidenze secondo cui l'immunità post-infezione al SARS-CoV-2 duri pochi mesi ed esiste quindi la possibilità di reinfettarsi. In una lettera aperta pubblicata su Lancet, 80 scienziati ribadiscono che l'immunità di gregge non possa fermare il virus. A Obiettivo Salute il commento del professor Giovanni Di Perri, professore di malattie infettive all'Università di Torino. Direi che da quel poco che sapevamo sui coronavirus convenzionali, cioè del cosiddetto raffreddore comune che conoscevamo da tempo, l'immunità diciamo non sembra persistere a lungo, un po' come tutti i virus respiratori, se vogliamo. Può darsi che un minimo di immunità protettiva nei riguardi della gravità del secondo episodio la si possa riscontrare, è l'impressione di molti di noi, benché non manchino in letteratura segnalazioni aneddotiche che possa anche essere addirittura un po' più grave il secondo episodio, però mi atterrei più prudentemente alla prima delle impressioni. Purtroppo non è un'infezione che, come il morbillo, lascia di per sé in maniera spontanea un'immunità protettiva permanente, per cui dobbiamo fare i conti con un vaccino, con un'immunizzazione che cerchi perlomeno di non far evolvere l'infezione se il soggetto l'acquisisce. Al momento quindi ci rimane come precauzione quella che è il nostro profilo comportamentale, il distanziamento, indossare mascherine e cambiarle spesso, non assembrarsi ovviamente, quindi evitare al massimo quelle condizioni in cui ci incontriamo con gli altri sostanzialmente. L'attività fisica praticata al mattino sembra avere un maggior effetto protettivo nei confronti di alcuni tumori, a quanto suggerisce uno studio pubblicato sull'International Journal of Cancer, che commentiamo insieme al professor Antonio Paoli, professore di scienza dell'esercizio fisico all'Università di Padova. È uno studio decisamente interessante questo, fatto anche su un numero elevato di persone, e in pratica dimostra o suggerisce come l'attività fisica fatta al mattino, soprattutto per le persone che sono chiamate i gufi o le civette, cioè quelli che sono più attivi la sera, sembra avere gli effetti protettivi, un tumore al seno e il tumore alla prostata. La cosa importante di questo studio è che è il primo studio che mette in relazione l'attività fisica fatta al mattino o alla sera al pomeriggio con alcuni tipi di tumore, e questo può, chiaramente è uno studio preliminare anche se fatto su un numero elevato di persone, non ha delle basi diciamo molecolari, però suggerisce che ci possano essere degli effetti ormonali dell'esercizio fisico fatto al mattino appunto sulla prevenzione, e questo diciamo che sicuramente apre la strada a numerosi altri studi per capire se il momento della giornata in cui viene fatta attività fisica possa avere effetti diversi, anche considerando, e questa è una cosa importante, il cronotipo della persona, cioè se una persona è più attiva al mattino o più attiva alla sera. Per oggi è tutto, come ogni giorno vi rimando alla pagina Facebook di Obiettivo Salute, dove potete trovare le nostre video interviste. Oggi cerchiamo di capire che cosa può insegnarci lo yoga nella nostra quotidianità. Vi aspetto, non mancate, una buona giornata da Nicoletta. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.